Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di facciate intelligenti stasera a Smart City. L'idea, come ricordavamo ieri, è che l'involucro di un edificio possa fare molto di più che limitarsi a proteggerlo dalle intemperie, che invece possa integrare nuove funzioni. E dopo aver parlato ieri appunto di facciate che recuperano l'energia dispersa dall'edificio, di facciate vegetali realizzate con materiali riciclati, stasera parliamo di due progetti direi anche più originali. Il primo lo sta sviluppando MicroLife, che è una giovane società, una startup con 3 anni di vita, che punta sulla coltivazione delle alghe nelle facciate degli edifici. Ci spiega tutto l'amministratore delegato di MicroLife, Andrea Moro. Buonasera Moro. Buonasera. Senta, allora, primo, come si fa a coltivare le alghe sulla facciata di un edificio, e secondo, che cosa ve ne fate poi di queste alghe? Non le buttate davanti a Venezia, vero? No, anzi, dovremmo trovare uno strumento per poterle utilizzare anche quelle di Venezia in un futuro prossimo. Le alghe su una facciata vengono coltivate in dei tubi di diametro 3 o 5 centimetri. Dovete immaginare una serie di tubi orizzontali pieni di acqua verde, questo è quello che è. Trasparenti, no? Perché deve entrarci la luce, naturalmente. Certo, sono tubi trasparenti perché le microalghe crescono attraverso la fotosintesi clorofilliana, quindi consumano anidride carbonica e producono ossigeno. All'interno di questi tubi ci sono dei nutrienti appositamente studiati per farle crescere. Cosa ce ne facciamo? Inizialmente avevamo pensato di utilizzarle come biocarburante, poi abbiamo visto che gli impianti energetici di questi sistemi sono ancora un po' claudicanti. Cioè, insomma, si finisce per consumare più energia di quella che si tira fuori dalle alghe. Esatto. E quindi abbiamo deciso di utilizzare questa materia, che ha un alto valore aggiunto, a fini alimentari o a fini cosmetici, quindi fare dei superalimenti proteici, vitaminici ed energetici, o utilizzarli all'interno delle spa, che possono essere situate all'interno dell'edificio, quindi fare dei fanghi, no? Perché i principi attivi dei fanghi poi sono le alghe, non sono sicuramente le argille di lenti. Quindi dove le mettiamo? Sulle spa e i ristoranti? Diciamo che gli edifici che utilizzano questo tipo di facciate devono essere edifici che, oltre ad avere destinazioni abitative, abbiano al proprio interno anche altri tipi di attività, tipo le spa o dei ristoranti. E forse le zone climatiche migliori sono anche quelle, insomma, dei paesi più caldi, quindi pensiamo ai nuovi mercati dell'Africa oppure gli Emirati Arabi, dove hanno bisogno anche di ombreggiare attraverso questi tubi. Grazie allora, grazie Andrea Moro. Prego, arrivederci, a presto. E dalle alghe passiamo a qualcosa di ancora più sorprendente per certi versi, ce ne parla il responsabile dei progetti internazionali del Kyoto Club, Piero Pellizzaro, che è tornato a trovarci. Buonasera Pellizzaro. Ciao, buonasera a tutti. Allora, siamo in Canada, siamo a Vancouver, all'università, dove stanno combinando che cosa? Diciamo che stanno facendo una cosa sorprendente, studiando il modo di allevare insetti nelle facciate degli edifici. Insetti, lo so che può sembrare strano, ma dobbiamo renderci conto che in molte culture alimentari, come nel sud-est asiatico e in Messico, l'insetto è parte della nostra alimentazione. A me risulta che circa il 70% degli esseri umani mangiano insetti, noi facciamo parte del 30% che non li mangia. Esattamente, anche se li mangiamo la notte magari con la bocca aperta mentre dormiamo. Però loro vogliono sfruttare gli impianti di ventilazione esistenti, inserendo all'interno di questi impianti di ventilazione, diciamo, dei piccoli box dove si può sfruttare il calore e l'aria esistente per far crescere questi insetti che in alcuni casi possono anche essere utili per la pulizia delle nostre aree verdi, perché possono essere controllati. Questo è l'obiettivo finale anche dell'Università di Vancouver. Ecco, tra l'altro, perché gli insetti, non solo poi perché alcuni li mangiano, perché gli insetti hanno bisogno di mangiare pochissimo per crescere, no? Consumano poche risorse e sono una fonte straordinaria invece di proteine. Rispetto, non so, ad allevare una mucca, no? Si consuma molte meno risorse allevando 100 kg di insetti che un quintale di mucca, insomma. Esattamente, anche perché sai, gli insetti possono essere utilizzati non solo come snack croccanti, ma anche come farine, che possono quindi essere utilizzati per una lavorazione seconda nell'alimentazione. Compresa tra l'altro l'alimentazione animale. Esattamente. Va bene, grazie allora Piero Pellizzaro, e ci troviamo insomma al ristorante. Sì, grazie a voi. Buona serata. Ciao, buona serata. Va bene, ci possiamo fermare qui. Io ricordo a tutti la mail smartcity@radio24.it. Potete contattarmi anche su Facebook, mi trovate col mio nome Maurizio Melis. Per chi invece non riesce a sentirci tutte le sere in diretta, c'è il podcast, potete scaricare le trasmissioni dal sito di Radio 24. Buon fine settimana e buon appetito a questo punto.